Allora la radio è la tua, quella solita di casa tua. No, ma anche io, alla casa c'ho il 3009 con l'MB più 4, invece qua c'ho il... quello mi hai dato tu. Quello sto dicendo, questo è il Typhoon, è inconfondibile, che c'ha una bomba, spinge che ha una bomba con la radio. Ma sai che mi ha difettato? Una volta l'audio, cazzo, non si sentiva l'audio, poi ho controllato bene, e c'era una cosa disaldata, una pista non faceva contatto bene. Poi un'altra volta ancora lo accendevo, non so cosa è successo, era il cavo, diciamo, l'alimentazione, ce l'ho più staccato. Poi un'altra volta ancora lo smitter. Insomma, mi ha fatto i luci, mi sono l'avevo aperta 20 volte questo baracchino. L'ultima volta l'ho aperta, non so, c'è un problema, allo smitter ho toccato la vitrina che c'è sopra, e sembra che stanno bene adesso. Ehi, hai migliorato anche il segnale, sei 9 più 15 qua, Luca. Ehi, forse perché oggi è una bella giornata, oggi ci ha fatto un caldo allucinante. Fine settimana, sabato, soprattutto domenica, fa una bellissima giornata, siamo intorno ai 20 gradi all'ombra, per cui al sole sarà sui 25-27 gradi domenica. E c'è poco vento, per cui è anche piacevole se uno deve fare una passeggiata o qualcosa. Infatti mi pare che vanno a fare un giro da qualche parte. Ok, no, sempre bella. Poi il Typhoon, non so se lo sai, magari lo saprai, è Saturn, eccomi, era davanti sul radio. Sì. No, va bene questo qua, a me piace un sacco, i veicolari mi piacciono un sacco. Tipo così, 3009, non mi dà barrasoni, anche se escono bene, sono perfetti, ma non, no, preferisco più veicolare io. No vabbè, diciamo, uno ha la possibilità di mettere, a me lo sa, il veicolare non mi piace, perché cacchio si girano, li fai, ma che non te li metti con la staffetta, io ce l'ho la 48 appoggiato sopra altre radio, però lo uso raramente, me l'ho usato all'inizio quando ero in un angolino, ma adesso se mi ho fatto la stazione non mi piace di tenerli così. Ce n'è un paio di questi veicolari, tre qua ce ne sono davanti, poi non anche altri, c'ho la 48, poi quello che mi ha dato l'altro Midland, il piccolino, che bello, però là Alan, cos'è? Ah, Alan 48 Plus, è bellino perché ha cristalli liquidi rispetto all'altro Alan 48 normale. Ma c'è arrivato qualcuno su 10 qua, attenzione. A me non mi piace l'Alan 48 Plus, c'ho il Mobicom io. C'ho anche il Mobicom che l'ho dato a Bracco, quella è una radio bellina, però non è che sia eccezionale come modulazione, è meglio l'Alan 48 secondo me. L'Alan 48 cos'è, rivedo, che si possono fare tutte le modifiche, ne hanno modificato tutto il mondo, per cui chi deve fare modifiche trovi di tutto di più. C'ha quello di buono, però a me non mi piace il cambio canale, un bel duro, tutti questi, è fatto apposta per i camionisti per fissarlo duro, un apparecchio robusto, perché niente da dire, come robustezza, è tutto in ferro, alluminio, però la 48 Plus è più comodo perché è piccolino, te lo metti in un angolino, me l'aveva dato maestrale, Salvatore me l'aveva regalato insieme all'antenna, una di quelle fruste che la uso quando molte volte ascolto nell'altra camera, la notte mi accendo la radiolina e mi metto quello lì. Però era il nuovo, se lo vede fiammante, ce l'aveva un pochettino e poi l'aveva tolto dal furgone. Ma hai detto che l'hai più sentita, Salvatore? Ci siamo sentiti per Natale, per Capodanno, ci abbiamo fatto gli auguri. Dice deve rientrare, dice forse rientrava a gennaio, ma vai, tutto bloccato, rientrava nel senso che doveva sistemare delle questioni burocratiche. Però di sentirci dal vero sono da un po' un annetto buono, che non lo vedo, un annetto e mezzo, dai, era venuto a salutarmi in officina, ma diciamo già ci salutiamo per messaggi, per cosa, dai. Ci mancherà un bel po', Io penso che ci manchi almeno un 6-7 anni, da lì, cioè in Austria, poi prima è andata a Calangiano, sono lavorato, forse più di 7-8 anni, diciamo 8 anni ci sarà lì. Tutta la famiglia lì c'è? Sì, tutta la famiglia. Grazie, scusa il telefono, un attimino. Bello Cariello. No. Aspetta un attimo Marco, aspetta. Fai pure lui, fai. Sono rientrato, c'è qualcuno? Luca. Stavo facendo roba, ciao Roba, stavo provando due parametri diversi, dai. Tutto qui. E cos'è il suo? Bri. È uno dei Roger Beep della... curiosità mia, l'eco, volevo sapere se era limpido oppure sporco, brutto da sentire. Test 1, 2, 3. Perfetto, pulitissimo, chiaro, niente da dire. Questo è un eco digitale, per cui non è di quelli meccanici, cosiddetti meccanici, per cui la ripetizione è esattamente la parola che tu dici, la ripete esatta, senza deteriorarla. Ok, funziona ancora. Adesso lo posso levare subito. E anche il bip. Funziona tutto, dai. Cosa c'ha? Ma bip di altri tipi o c'ha questo? Vari tipi di bip, 5 ne ha. Questo è il più passabile, 2 sono passabili, gli altri sono brutti e lunghi. Fammi sentire per curiosità. Aspetta, beh, devo andare alla ricerca dei menu. Qua è tu, menu, sottomenu, mamma mia. C'ha 3 tipi di menu e ci accedi in 3 modi diversi. C'ha pochi tassi, ma è tutta la menu. Ah, sì. Ci è arrivato qua su 10? Aspetta, non mi sento. Questo è l'1. 3 bip, triplo bip è questo. Sì, è lungo, sembra un CV doppio. No, troppo lungo. Adesso metto il 2. Siete da 4. Siete magari una cosa, un'attesa da telefonata. Luca, hai fatto? Ah, questo è brutto, sembra quando sta suonando il telefono. E poi, NVS. Ciao Gianni, ti sta facendo ascoltare Roger Bip, che non ho mai sentito, anche c'è cioè, tipo quando sta facendo il numero del telefono di quelli a disco. Ehi, non vogliono sentirti. Una cagata in parole povere, no? Il bip normale, quello, il bip bello forte però, presente, quello mi piace. Quando sta chi la comunicazione, almeno uno è sicuro che è interrotto di chiamare, uno che non ha lo smitter, che non può vedere. Ciao Gianni. Ben risentito. Numero 3, credo che sia uno dei passabili. Hai visto che tu quando fai il numero che sta facendo il numero di prima? Però è lento, più breve, più veloce. Questo va bene in propagazione, quando usi la banda laterale. Se fai molte pause nel parlato, vabbè, come qualsiasi altro bip. Comunque, numero 3. Numero 4. Quello di prima, il primo, che hai sentito? Io ti bari il messaggio quando ti arriva il messaggio sul cellulare. Sì, perché adesso stanno facendo i baracchini che sembrano cellulari, i cellulari che sembrano baracchini. È un po' bassino, dai. Passabile, dai, però non è un gran... Molto videogame. Fammi sentire il 5 adesso, Marco. Questo è altrettanto lungo, altrettanto brutto, però. Non troppo lungo, mi guarda, Che cazzo, dietro un sistema d'allarme. Sembra il telefono tuo con una squilla. No, vabbè, il telefono tuo è più bello, è la classica sirena italiana. Se non fosse così lungo non è brutto, se facesse bimbo. Esatto, ci sono baracchini che hanno 10 o 12 mili, questi CRT omologati, moderni, però con tante opzioni, autoascolto, eco, l'eco non manca mai, sembra che sia diventata una cosa indispensabile. Dai, non voglio monopolizzare, che tanto ero mezzo in preabbiocco. Rilancio Luca se è entrato, rimango all'ascolto. Ciao Gianni Novola. Luca? Cioè, ma quando attacchi un coso, quei sistemi che ti danno la misura, no, i battiti cardiaci, bibu bibu, il paziente è morto. Esatto, quando va in crisi, quando i parametri vanno fuori scala. Ma ho visto, scusate Monopulio, su internet questo tipo di furi sudamericano, non era italiano, c'era questo baracchino super modificato, collegato al computer, poteva metterci tutte le cose che voleva, anche le musiche come sacco, per dire una melodia, una cosa, furia qualunque cosa, e più c'era il tipo l'RDS nel display, e c'era il nome suo dell'operatore, per dire Marco Condor, gli appariva in coso, in sovrappressione il coso suo, cacchio, ma era micidiale, aveva poche di cose, questo baracchino, luci, psicheliche, era una cosa allucinante, ma la cosa che mi è piaciuta più di tutti è che inseriva lui questi effetti qua nel baracchino, cioè poteva metterci anche il nome suo, per dire Marco, ti diceva, credeva la parola, diceva Marco, o qualunque altro nome, qualunque cosa voleva la metteva sopra. Tutta roba carina, minnoli per la radio, dai. C'era un periodo che forse c'era o una scatolina da mettere tra il mic e la radio, oppure era un microfono che credo campionasse, registrasse i suoni che gli davi, qualsiasi fosse una musichetta, un rutto, come volete, te lo campionava, tra virgolette, te lo registrava e te lo rimandava, solo che era talmente di bassa qualità la campionatura, che poi non è roba che ha avuto successo, ma sto parlando di 30 anni fa sempre. Ma era in analogico, come i primi vecchi, ecco, in analogico. Io c'ho, mi ha dato un coso, probabilmente lo conosce Gianni, che lui è più esperto, il Binson, lo conosci, con l'Eco Binson, l'hai mai sentito nominare tu Gianni? L'Eco Binson è una camera ecco che si attacca alla chitarra o alle tastiere, fa degli effetti e costa anche un sacco di soldi, me l'ha dato un amico. E ho visto su internet, c'ha 8 testine, c'è un disco, un cilindro rotante, ci sono 8 testine, puoi regolare la velocità, i tempi, un sacco di marasur, e ti fa tutti gli effetti. C'era questo qua che lo stava facendo vedere su internet e lo stava spiegando, e tutti i migliori chitarristi del mondo, prima di uscire questi nuovi digitali, dai Pink Floyd, Van Halen, eccetera eccetera, usavano questo qua, ed è prodotto in Italia, Binson si chiama questo qua, è una scatoletta nera, sarà un 40 cm, 40-50 cm, c'è questa specie di coso rotante, e ho visto tutti gli effetti che fa questa cosa, è allucinante. Boh, non ho avuto ancora la possibilità, vabbè, conosco altre cose più o meno simili, dai, della Boss, campionatori e pedaliere varie, dai, che vengono usate in modi anche molto stravaganti e devo dire molto geniali. Sì, no, ma il campionato è tutto roba digitale, non esiste più il discorso, ma quello so qua è particolare perché è una testina rotante, c'è presente un videoregistratore, c'ha quelle testine grandi e ci sono attaccate 8 testine di lettura, che queste le puoi, a parte puoi modificare la velocità di rotazione di questa testina rotante, e più ci sono le testine, le puoi avvicinare, allontanare, e ti cambia completamente gli effetti. Le usavano per le chitarre elettriche per fare tutti questi effetti tipo la Jimi Hendrix. Ho capito. È interessante, eh? Ha voglia di roba, di accrocchi vari, dai. Sì, no, ma poi i musicisti, a me mi sono sempre ammirati questi musicisti che sono degli innovatori, che ti creano nuovi segnali, nuovi suoni, per dire la musica elettronica, quando c'era, non so se ti ricordi, Jean-Michel Jarre, che era uno degli innovatori che faceva tutti questi cacchi di suoni particolari, quando si metteva ai concerti lui aveva 10 tastiere, cose, effetti tutti particolari, lui faceva dei suoni bellissimi, cioè particolari. Sì, adesso mi è venuta in mente un'altra cosa, vabbè, come hai parlato di tastiere, mi è venuto in mente Jean-Michel Jarre, non so se lo conosci. Te l'ho nominato Jean-Michel Jarre, ha fatto tutti Equinox, io ce ne ho diversi di dischi, ha fatto Profondo Rosso, non Profondo Rosso, L'Esorcista. Sì, un amico me li fece ascoltare quando, ma ti parlo dei primi anni 80, ne aveva diversi di vinili di Jean-Michel Jarre, era un grandissimo, uno dei grandi precursori della musica elettronica insieme ai Kraftwerk. Allora io te li nominerò tutti velocissimamente. Allora, lui è un innovatore perché è un genio nel campo suo, come Mike Oldfield, non so se ti ricordi Mike Oldfield, lo stesso ha fatto Moonlight Shadow, quella canzone famosissima, poi c'erano i Kraftwerk, i Rockets che hanno fatto loro, però io parlo di come chiamarli, di scienziati della musica, perché Jean-Michel Jarre è uno scienziato della musica, come l'altro, quell'altro tedesco che è un mostro, che ha fatto una marea di concerti, di cose, ho visto il concerto dal vivo di quello lì, Zimmer, non so se l'hai mai sentito, Arthur Zimmer, un tedesco, se tu entri cosa fa quello lì, i concerti di quello, se avessi le possibilità di andare a vederlo correrei, ho visto un video di un concerto che fa questo, ma è una cosa da paura, cosa usa, e poi gli strumentisti che si porta appresso, poi sono tutti selezionati, sono dei personaggi per ogni genere di cosa che fa lui, c'è un personaggio, e poi ci sono delle modelle allucinanti, violiniste, tastieristi, cose, lui è un grandissimo tastierista e compositore, pianista eccetera, ma tu fa delle musiche, Zimmer ha fatto quella di coso, Rayman l'ha fatta lui per toglierne una qualsiasi, ha fatto i Pirati dei Caraibi, l'ha fatta lui quella musica, ma ne ha fatto centinaia di film che hanno vinto Oscar, a livello di Morricone, ma questo è un mostro, avanti a te di nuovo. Sì, ho capito, Hans Zimmer, sì, fa diverse colonne sonore per film, conosco. Una personcina anche lui. Vediamo Marco se ha finito con i bip. Sì, sì, ho raggiunto la pace dei sensi, dai, intanto tutta roba. Anche l'autoascolto, non lo uso mai l'autoascolto, perché tanto mi ti avvicini di pochi centimetri all'apparecchio e fischia, capito? Cioè, o non ti senti o fischia, e allora affangala, come dicevano in quel film. Chi lo diceva affangala? Quello dei primitivi, ti ricordi? Che c'era Montagnani, tutti quegli attori, quando le donne avevano la coda era. Ah, già me lo ricordo, che era il periodo degli anni 70, dei primi nudi in televisione, ai tempi di Ludwig Fenech. ho visto una immagine, scusate la monopolio, questo tipo cieco, uno giovane, cieco, col bastone, c'è scritto nella maglietta nera, tutta colpa di Ludwig Fenech. Commedia all'italiana. Adesso ho inserito il bip dell'M95. Spiega. Quindi, che poi è diverso dall'originale, lo sai? È già diverso. Forse è stato elaborato, modificato. Io quello di serie è abbastanza. Tiro, così, tiro. Non entusiasma, questo è già più carino, più squillante. E con i toni a salire. O no? Aspetta, fallo. È fatto di. A salire, sì. Questo è pomponiesco come bip. Questo è un, come si chiama, un bip di voce bianca, perché sembra che poi alla fine lo strozzano, che gli stringano le palle. Quello è incorporato nel microfono, aspetta, lo levo. Ah, il bip singolo, è bello, a me piace, non l'ho mai criticato, io non posso vederli, ecco, mamma mia. Soprattutto quando sono quelli, ecco, tipo dei Saturn, ecco, così, sono tutti ecco di vecchia generazione, che sono, ti sporcano poi la voce. Questo che ho utilizzato tu, Marco, era bello, pulito, chiaro, non posso dire niente, ma ci sono quelli che usano con doppio modulatore, triplo modulatore, cosa, ma la sostiva di più, effetto elicottero, effetto quelli non si capisce niente, tu vai a dire, ma cosa hai detto, chi sei, non ho capito, il tuo era digitale, un eco digitale perfetto, pulito, quello va bene quando fai i sacchetti di qualcosa alla radio, cosa del genere, almeno adesso non si usano più, ma prima erano molto utilizzati gli eco così, però cazzo, per tre volte sento degli eco, ma non si comprende nulla. Sì, peraltro poi questo eco non è regolabile dall'esterno, si può regolare solo dalla scheda madre, c'è due parametri, uno il volume che aumenta anche i numeri delle ripetizioni e la velocità della ripetizione. Invece il 5005 ha i controlli frontali. Sì, ma questo dei controlli frontali, una volta che tu vedi, te lo devi mettere nel camion, una volta che ti hai fatto le regolazioni, non devi stare sempre tu, Kenny, cioè questo di aumentare la velocità, di mettere i tempi, la ripetizione, eccetera, eccetera. Secondo me è una cosa inutile, una volta che hai regolato, l'eco deve essere soltanto per ripeterti la voce, c'è a un certo punto, 4-5 volte la ripetizione e buh. Quello deve essere, secondo me, la funzione dell'eco quando stai camminando in macchina, sei in mezzo a delle montagne e colline che ti attengono il segnale a quel punto, ma no, troppo lungo, lungo, lungo, e poi fa vu e non si comprende nulla. Vabbè, comunque l'eco io non mi serve. Ci serve solo a appesantire la modulazione, a meno che non sia talmente leggero da essere quasi impercettibile. Qui c'era l'eco Mayer tipo riverbero, aveva una ripetizione molto molto ravvicinata, era tipo quella di Visitors che aveva Pomponio prima, e ti ricordi che ha fatto un passaggio, era molto molto rapido, tipo Visitors. Sì, ma io dico una cosa, lo scopo della radio è farsi sentire, o sbaglio, cioè lo scopo della radio è quello lì, la televisione è di farsi vedere, la radio è di farsi sentire, quando uno si fa sentire bene, cosa vuoi di più? Cioè è un controsenso, è come se tu stai ascoltando una musica in un impianto serio, e la deteriori, li metti in basso a manetta, gli acuti tutti distorti, dite cosa giù va, per cui la radio che funziona se noi ci dobbiamo far sentire, di mettere un eco, io questo se non l'ho mai capito, siamo in città, ci stiamo ascoltando, ma è bello, bello, sì, è bello che cosa, tu ti devi far sentire, non ti devi deteriorare la modulazione, ci sono i radioamatori che cercano di trovare i valvolari, i vecchi apparati di 50 anni fa, proprio per avere una modulazione chiara, naturale, il più possibile, e qua c'è gente al contrario che lavora per farci sentire male. A chi piace cotta, a chi piace cruda. A molti piace l'eco, a me no, io non lo metto. Vabbè, io già lo sai, più radio, la fangala. più pulita è la modulazione più mi piace a me, cioè che mi sentano bene, magari segnale zero ma la modulazione sia capibile, tutto lì. Ed sono tutti baracchini col microfono di serie. Non uso nemmeno microfoni con equalizzatori parametrici. Baracchino originale, microfono originale, cioè. E boh. Certo, deve essere che così. Avanti a te, Gianni. Aspetta, quello MB più 5 se ne sta ridendo, chiuso in scatola. Ce l'ho comprato per lasciarlo in scatola. Non ha senso. Ma scusate di nuovo il monopolio. Marco il radioamatore già lo conoscete tutti, mi sembra. Certo. Allora, non so se voi avete visto l'impianto che c'ha, parliamo audio, di voce, non parliamo di baracchini, di apparati, parliamo solo come cura la voce lui, nel senso con le equalizzazioni, compressore dinamica, espansori, eccetera, eccetera. Stiamo parlando a livello di studio di registrazione. C'è un mixer, penso che sia un 24 canali, una cosa del genere. Ed è famoso per la qualità dell'emissione, cioè uno di quelli usa dei microfoni da studio, non usa microfoni da dritti, sicuramente non usa né un MC60, anche se ce li ha. E se vedete come esce, lui è famoso non tanto per gli apparati, per la qualità di emissione. C'è anche il titolo, no, per fare pubblicità, The Voice of Sardinia, il suo coso, target, diciamo, il suo brand, il suo marchio di coso. E quello lì, io quello che ammiro di una persona quando esce bene, no? È inutile che ti ascoltano tutto fischiato, con coso di suono. Uno deve uscire pulito e chiaro, questo secondo me è far radio, non uscire tutto disordinato. Ma minimo avrà e il sound. Anche, credo che c'abbia anche dei microfoni valvolari, per dirlo a te, perché a un certo livello bisogna usare anche dei microfoni valvolari, e lo saprà anche meglio di noi Gianni, il profeta in studio di registrazione. Stanno riportando i microfoni solo per voce, che amplificano solo la voce, poi se fai gli strumenti devi amplificare una chitarra e cose, altre cose, però per amplificare la voce stanno ritornando in auge dei microfoni valvolari, con un preamplificatore valvolare, e c'hanno delle prestazioni allucinanti, cioè tu li vedi, anzi non li vedi, li senti e sembra che la voce ce l'hai vicino, senti il respiro della persona, naturalmente tutto rapportato al tipo di emissione che abbiamo qua, perché la risposta in NM è da 300 a 3000 Hz, per cui tu devi cercare di rapportare, non è un'alta fedeltà, però in quei 300, in quella banda di frequenza, è 300 e 3000 Hz di risposta in frequenza, parliamo della modulazione, anche io devo cercare di uscire con la linea, essere più lineare possibile, no? Avere tutto compresso, troppo acuti, troppo bassi. Infatti io questa che ho io di modulazione, a me non, sinceramente non dico che fa schifo, però non è quella che vorrei io, e quando ci avrò tempo ho la possibilità di montare una testata nuova su questo microfono, per un altro microfono, dai, e fare i lavori che dico io, essere il più possibile fedele a quella che voglio io, la modulazione. Sì, Gianni riprendi, dai. E Luca non è entrato, no? Boh, io ho messo a scaricare roba da quella mi stasera, per cui dai, colgo l'occasione per salutarvi, ci risentiamo un altro momento, dai, per cui buonasera a tutti, Marco, Roberto, Luca, boh, che si è sentato, Tonino è fatto il QRX da tanto, Natalino e tutti gli ascoltori, dai. Ci aggiorniamo al più presto possibile. Bye bye, buona serata, buona carica e tante cose belle. E io riprendo io, dai, anche io adesso ho fatto, dai, vado a mangiare, dai. Ciao Gianni, fatti sentire quando vuoi, sempre un piacere. Ciao Marco e tutti gli eventuali amici su canale 10. QRT da parte mia. Ciao ciao, buon proseguo se qualcuno deve parlare dopo. Ciao a tutte e due, ciao, ciao agli ascoltoni, buona serata a tutti, ciao ciao. Ciao Marco lì, ciao. Chi è? Marino, tu eri, non ho fatto in tempo? Vabbè, ciao a tutti, ciao. Luca anche, ciao, ascolto, ciao a tutti, ciao.